Compagnia Tintin presenta Grasso di Antonio Lillo con Elisa Gestri. Montaggio audio Michele Donofrio. Regia Elisa Gestri e Michele Donofrio. Ho perso peso, faccio sport e nessuno potrebbe sospettare il mio passato di obeso, vero? Ma il grasso mi è rimasto nel cervello, me lo inquina. È colpa di mia madre. Amavo mia madre. Mia madre, piccola, tozza, con le guance rosse, tanto dolce, quando mi riempiva di baci o mi faceva il solletico sotto i piedi la mattina per svegliarmi. Quando hai fame, mi diceva sempre, non importa se il pane è duro, l'importante è mangiare. Peccato che noi di fame a casa non ne avevamo mai. Ogni nostro pasto era qualcosa di fantascientifico e accuratamente studiato per l'ingrasso. Anguria, pompelmo, mela, banana, perché mia madre aveva letto su una rivista che la frutta prima dei pasti fa digerire. E poi pasta al sugo, al tonno, aglio e olio e magari peperoncino, melanzane ripiene, arrosto di agnello, salsicce, pece lesso o gratinato, polpettone e poi formaggio e mozzarelle, una coppa enorme di insalata, perché mia madre diceva che l'insalata fa bene, pollo fritto, patatine, dolce alla crema, torta di mele, zeppole, tiramisù, vaschetta di gelato e caffè. Buono il caffè, con quell'odore forte, il sapore aspro, scuro, me lo sento ancora sulla lingua. E questa era la normalità. Avresti dovuto vedere alle feste, quando si andava dai parenti. una roba indescrivibile. Lasciare gli avanzi è peccato mortale, mi dicevano. Mi rimpinzavano di roba. E poi dobbiamo mettere il piccolo all'ingrasso per il prossimo Natale. E ridevano della loro trovata. Eppure, forse tu non ci crederai, ma io ero felice. Nonostante tutto, anche se stavo sempre solo, ero felice. Leggevo, sognavo. Quando leggevo, la solitudine mi piaceva. Mi piaceva perdermi per ore nelle mie fantasie. Sognavo di volare. I miei preferiti erano i sogni di viaggio. Facevo sogni lunghissimi. E alcuni andavano avanti per giorni e si evolvevano di volta in volta verso tappe inaspettate, nuove, avventurose, assolutamente incredibili. Sognavo anche che arrivasse l'estate. Per andarmene al mare e sognare a occhi chiusi, completamente immerso nell'acqua, di essere una delle boe che si vedevano galleggiare in lontananza. E poi il pericolo, pirati, squali, sottomarini russi, tutto nella mia testa si mischiava in un solo universo fantastico e tutto mio. Finché, un giorno, non mi aprirono gli occhi e mi dissero che ero grasso. È stata la maestra a dirmelo. Eravamo in classe, quinta elementare. Si scriveva un tema su cosa avremmo voluto fare da grandi. Io me ne stavo in fondo alla classe, nell'ultimo banco, e nel mio tema parlavo di quanto mi sarebbe piaciuto andare in America. Per conoscere gli indiani e fare un lungo viaggio in treno attraverso le praterie fino a raggiungere i ghiacciai dell'Alaska, proprio come nelle storie che leggevo. Scrivevo tutto tranquillo, perso nel mio sogno americano, mentre la maestra girava tra i banchi per controllarci. A un certo punto mi si ferma alle spalle, allunga il braccio, mi strappa il foglio di mano. «Ma cosa stai scrivendo? Che c'entra l'America?» «Ma io voglio andare in America da grande!» «Con tutta quella trippa lì? Dove vuoi andare? Sei grasso da far schifo! Scordatela, l'America, e affronta la tua vita una buona volta!» Poi si gira, torna alla sua cattedra e fa finta di nulla. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Mi sono accorto di essere grasso. E sono un po' più triste. Però non ho mai smesso di sognare l'America e i ghiacciai dell'Alaska. Io la sogno ancora l'America, sai? L'America! L'America! Ma che, ti ho intristito? I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train.